Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Con oltre 18.000 addetti e più di 5 miliardi di fatturato annuo, l'industria conciaria italiana è considerata leader nel mondo, soprattutto per quanto concerne la produzione di pelli pregiate. È un'industria che tuttavia fa largo uso di processi chimici, alcuni dei quali richiedono reagenti molto impattanti per l'ambiente, che rendono necessari a valle sistemi di abbattimento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'ambiente. Questa sera allora andiamo al laboratorio di tecnologie dei materiali di Faenza, uno dei numerosi laboratori dell'Enea, per parlare dei risultati del progetto europeo Podeba, finanziato con circa 600.000 euro e finalizzato a individuare dei reagenti e dei processi per la concia più sostenibili degli attuali, e progetto che è stato anche premiato come Best Life Environment Project nel 2015. Ma diamo il benvenuto alla nostra ospite, Alice Dallara. Buonasera. Buonasera. Allora, ricercatrice dell'Enea, coordinatrice del progetto Podeba, diciamo qual è subito il risultato principale appunto di questo vostro lavoro. Il risultato principale è la sostituzione nella fase di macerazione delle pelli di prodotti chimici, solfato d'ammonio più enzimi proteolitici, con un nuovo prodotto ottenuto dalle deiezioni degli animali, cioè dalla pollina. Perfetto. Dalle deiezioni avicole. In pratica si mette a macerare il pellame durante la sua preparazione prima della concia vera e propria con questo nuovo prodotto, la pollina trattata, in modo tale da renderla morbida, da creare i vuoti all'interno del derma, all'interno del pellame, in modo poi da rendere possibile la concia vera e propria, cioè l'uso degli agenti conzianti nel pellame. Ecco, diciamo che adesso io non sono affatto un esperto di pelli, ma sostanzialmente questa macerazione serve a eliminare una serie di robe che non si vogliono, tra cui i peli, per esempio. Esatto, giusto? Servono nelle lavorazioni preliminari per togliere i residui di peli, per allentare la struttura, per renderla fibrosa e soprattutto per renderla morbida. Per renderla morbida, perché poi arriva questa fase che si chiama concia vera e propria, che serve a rendere imputrescibile la pelle, no? Sostanzialmente. Si prepara a questa fase. Ecco, quali sono i risultati? Voi avete appunto scoperto che la pollina, che poi sono le deiezioni degli uccelli, sostanzialmente può essere usata per questa fase di macerazione. Con quali risultati però? I risultati sono stati ottimi perché sono stati sostituiti gli altri prodotti e si sono ridotti da una parte gli impatti ambientali, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle acque di scarico. Questa è la fase in cui c'è il più alto carico di ammonio e di inquinanti, e in pratica si è riusciti a ridurre di oltre il 40% il carico di ammonio. Aspetta. Oltre il 40% anche della conduttività, che è sempre un parametro importante, e oltre l'80% i solfuri. Per cui abbiamo visto che i prodotti ottenuti hanno almeno la stessa qualità dei prodotti ottenuti con i processi standard, però si riduce il carico inquinante nelle acque e in generale in alcune condizioni si permette anche un risparmio nel costo dei prodotti che vengono utilizzati. E certo, perché questo in realtà è un mezzo rifiuto, questa pollina, magari è anche un problema da smaltire in qualche caso. È un problema soprattutto nella nostra zona, quella della Romagna, è una zona di piena di allevamenti. Comunque la pollina in questo caso deve essere solo pollina di ovaiole, cioè pollina senza lettiera, con particolari caratteristiche, che si sciolga direttamente in acqua. Quindi questa è una tradizione antica, perché anche nell'antichità si utilizzavano anche in Nord Africa deiezioni di piccioni, di polli, eccetera. Però deve essere anche adatta alle nuove condizioni delle concerie, cioè adesso le condizioni delle concerie sono molto più salubri rispetto a quelle di una volta. Certo, per fortuna, perché credo che i quartieri medievali dove si lavoravano le pelli fossero il posto peggiore in assoluto dove trascorrere la vita tempo. Esatto, adesso si lavora tutto all'interno di bottali, quindi in termini confinate, riducendo gli impatti ambientali, eccetera, e quindi si è lavorato per riuscire a utilizzare all'interno dei bottali questo nuovo prodotto, però con caratteristiche di odori, di igienicità completamente diverse rispetto a prima. Al passato, che era il problema, il motivo per cui si era abbandonato l'uso di deiezioni animali, per ragioni palesemente igieniche, di odori e cose di questo tipo. Senta, i risultati ci sono, è evidente, sono risultati molto interessanti, credo, per un'industria conciaria. C'è qualche reazione? Cosa farete adesso, o questa roba resterà lì nei vostri cassetti? No, nei cassetti non vogliono assolutamente interessi. Diciamo che i primi contatti ci sono stati e ci sono, e ad esempio anche alcune prove proprio fatte con concerie di alta gamma sono state fatte all'interno del progetto, sì, per dire, con l'antica conceria del Chienti e a Tolentino, con prodotti di altissima qualità, ottenendo risultati positivi, riduzione dell'impatto dei solfuri, eccetera. Ci, noi aspettiamo altri contatti. E adesso arriverà forse anche altre novità. Sì, stiamo conducendo un altro progetto LIFE, in cui non solo per la fase di macerazione, ma anche per la fase di colorazione, di concia vera e propria, per l'ingrassaggio e lo sgrassaggio, cerchiamo di sostituire i prodotti attuali con prodotti impattanti da fonti rinnovabili e quindi proporre una linea più green per la concia. È proprio il nostro know-how italiano. Va bene, allora grazie Alice Dallara e buon lavoro. Grazie, la ringrazio molto e accetto volentieri gli auguri di buon lavoro. Va bene, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Buon fine settimana. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.